Rientriamo nella terza decade della storia delle ZLN, quella che va dal 2003 al 2013. Inizieremo ascoltando la voce della comandante Ramona, colei che fu tra le prime donne ad entrare nell'organizzazione, colei che assieme alla comandanta Susanna volle la legge rivoluzionaria delle donne indigene e di fatto spinse ad una rivoluzione interna alle comunità in senso femminista e di libertà delle donne, ma anche al fatto che l'esercito rivoluzionario trattasse la questione femminista. A lei si deve il rigore e l'intransigenza zapatista. Morì il 6 gennaio del 2006 durante la otra campagna. Hay muchos pobres. No hay buena casa. No hay nada de dinero para comprar que queremos. C'è molta povertà, non ci sono buone case, non ci sono soldi per comprare ciò di cui abbiamo bisogno. Siamo sfruttate e sfruttate. Anche per questo le malattie sono difficili da gestire. Non ci sono medici e medicine e così le persone muoiono. Si trattano i campesini come animali. Si vende ciò che producono, ma si trattano come animali, come bestie e si cerca di pagare quello che producono il meno possibile. E lo stesso succede con gli indigeni e con le indigene. Ed è per questo che ho iniziato ad organizzarmi e coinvolgere le persone, per superare sfruttamento e le grandi ingiustizie. Per questo è meglio che ci sia un cambio. Noi chiediamo diritti, perché noi sappiamo di avere diritti. Siamo uguali, uomini e donne. Qui si muore da giovanissimi. Io non sono morta giovane, mi sono organizzata. Io sono libera, mi sento libera, anche di scegliere di chi innamorarmi. Sì, si può, si può. Ma non perché lo chiedo, ma perché mi sono liberata. Il prezzo, però non si pagano così. Si pagano lo che quiere. Antes io ero chiquita, vendemos los gallinas o huevos así. Los jalan, lo quieren en su regalo, así. No pagan lo que queremos pagar. Cállate, yo nada más dijo los mestizos. Por eso y antes no me trataban bien los campesinos y los mestizos. Por eso ahí poco a poco me empezó a organizar la gente y a decir la gente para que se vea la gente si es cierto o no es cierto, si hay explotación. Se ve, hay muchos sufrimientos y hay muchas injusticias. Por eso mejor que hay cambio para que habla también la mujer. Tiene derecho también. Tenemos derecho como... Así pensamos, para que tenemos derecho, no solo el hombre tiene derecho, somos iguales, y hombre y mujeres. Los campesinos siempre se enamoran muy chiquita, y de 15, de 18 años, así. Pero yo no. Pero... Me sentía igual, estoy libre. Como yo soy, ya tengo un conocimiento bien. Me sentía, estoy libre, y si alguien me enamora y todo, y así, si puede. Pero nada más, si quiero, però con anche libertà. Con la nascita dei Caracol e le giunte di buon governo, la lotta zapatista si concentra soprattutto sulla costruzione dell'autonomia indigena. Le ZLN si impegna a dare sostegno alle comunità e lasciare la centralità al governo civile dal basso, e per questo mette in discussione molte delle strutture sociopolitiche che dal 1994 aveva invece creato per gestire progetti e rapporti con chi vive fuori dal territorio ribelle. Cosa accade dentro le comunità ai caracol è deciso direttamente dagli indigeni e dalle indigene che hanno ruoli di responsabilità collettiva. I progetti non vengono più nemmeno discussi con la comandanza, un cambio di fase che ha guidato la storia di auto-organizzazione zapatista fino al 2023, quando con una serie di comunicati vengono lanciate delle novità organizzative in seno al percorso dell'autogoverno. Le ZLN si fa sempre più forza politica e meno militare, e nel 2005 lancia la sesta declarazione della Selva Lacandona, ovvero ciò che hanno definito come la più audace e la più zapatista delle iniziative che abbiamo lanciato. Mentre nel 2006 annunceranno la Otra Campagna, un percorso alternativo alle elezioni presidenziali e che puntava alla costruzione di una rete di soggetti nazionali ed internazionali in lotta contro il capitalismo e le sue strutture. Zapatiste e zapatiste si distanziano definitivamente dal rapporto con il mondo della politica istituzionale e partitica. Sentiamo la voce e il commento di Raul Zibeji, di un indigeno che per tanti anni ha fatto parte dell'organizzazione, e dell'antropologa Margara Millán. In questi 30 anni i zapatistas hanno conseguito tener una presenza importante in más de 1.200 comunidades. In questi 30 anni gli zapatisti hanno ottenuto una presenza importante in oltre 1.200 comunità. Hanno messo radici come comunità tenendo una forza molto importante, creando una trama autonoma in tema di salute e organizzazione e di tutti gli ambiti produttivi, sempre basandosi sul lavoro collettivo. Sono riusciti a costruire l'autonomia su tre livelli, locale, municipale e regionale. Ciò mostra la capacità di espansione dello zapatismo dentro i popoli di origine maya. Questa è una consolidazione molto importante. Basta vedere i luoghi di salute, dalle comunità alle cliniche zonali, passando per le scuole primarie e secondarie, così come c'è stato lo sviluppo delle attività produttive e senza l'utilizzo di agrochimica, una produzione di fatto sana. Il lavoro collettivo è al centro. Nelle comunità esiste una relazione collettivo-comunità opposta a quello che si vive nelle società capitalistiche occidentali e nelle città. Marx, per esempio, non parlava di lavoro collettivo, mentre qui al centro si parlava di un operaio che vende la sua forza lavoro ad un padrone. Ma d'altra parte non esiste fuori dai popoli originari l'esempio di lavoro collettivo. Esistette solo per un breve periodo dentro al mondo operaio. Qui invece tutto è costruito in collettivo. Questa è una rivoluzione diversa da quelle che abbiamo già conosciuto, e si espande in un territorio che ha la dimensione del Salvador, più o meno. Qui non sono tutti e tutte zapatisti, e non potrebbe che essere così, perché qui non esiste il concetto di egemonia e di omogeneità. La differenza qui è un valore, e le famiglie che non sono zapatiste non si possono obbligare ad esserlo. Questo modo di essere ha permesso alle ZLN di tenere una relazione solida, non solo con le basi di appoggio, ma anche con chi non è zapatista. E così, quando si sono allargati i caracoles, in molti capiscono e hanno capito che questo è un percorso di dignità. Questo è un risultato di dignità nella costruzione di un mondo degno, forse il risultato più importante raggiunto in questi 30 anni. Importante la classe obrera, per eso se disolvió. Entonces todo lo que se ha construido en colectivo. Si ustedes miran las fotos de los caracoles, de las clínicas, de cómo funciona la justicia, lo que se ha conseguido en 30 años es mucho, es una revolución. Es una revolución muy distinta a las que conocemos, que funciona en un territorio donde la extensión es más o menos la de un país como El Salvador, o sea que no es una extensión menor. En ese territorio no todas y todos son zapatistas, como no lo son en ningún lado ni pueden serlo, porque aquí los conceptos de hegemonía, de unidad, de homogeneidad no existen, entonces se respeta esa diversidad, y las familias que no son zapatistas no se las puede obligar a ser zapatistas. Y esa madurez del STLN le ha permitido tener un vínculo muy sólido con las bases de apoyo, pero además con los que no son bases de apoyo. Y entonces cuando se expanden los caracoles, familias que no eran zapatistas entendieron que ese es un camino de dignidad muy importante. Y esto es un logro, ¿verdad? La dignidad, el construir un mundo nuevo con dignidad. Yo creo que esto es uno de los logros, más allá de lo material, más importantes de los últimos 30 años. Bueno, la importancia durante la lucha que se hubo del movimiento, pues gracias a los... Grazie alle comunità, alle persone che hanno costruito il movimento. Oggi abbiamo il diritto e un po' di pace. Scuole dove si apprende la vera educazione. Abbiamo case di salute, abbiamo strade con le quali possiamo viaggiare, abbiamo terre, lavoro, cibo e alimenti. Abbiamo dove coltivare, possiamo lavorare, assieme uomini e donne. Insomma, tutte quelle cose che abbiamo visto, anche se il governo prova a dividerci, a fiaccare la luce e la lotta, creando progetti che ci dividono, che ci separano. Ma le comunità continuano costruendo l'autonomia e lavorando in collettivo. Il governo non ha potuto sconfiggere questa, che è una lotta vera. Comida, todo lo que es la alimentación, ya podemos ya un poquito sembrar, tenemos donde cultivar, tanto hombres y mujeres. Entonces la importancia que ya hoy en día lo estamos viendo por la lucha que se hubo. Entonces, pero el gobierno, pues, él sigue mandando muchos proyectos, migajas que ellos querían hacer dividir la lucha para acabarlos, pero los pueblos, pues, siguen resistiendo, siguen en autonomía, siguen en el trabajo, pues, aún el gobierno, pues, no ha podido acabar, por lo que es una lucha que fue una lucha verdadera. Y la idea de autonomía indígena, que en realidad ya existía en nuestro país, puesto que los pueblos originarios... L'idea dell'autonomia indigena già esisteva nel nostro paese, tanto che i popoli originari hanno sempre avuto una certa autonomia e un'autodeterminazione. Ma quello che accade con l'azione zapatista è l'idea dell'autonomia in tutti i sensi, non solo per i popoli indigeni. È un'idea che a poco, dopo la sconfitta, nell'idea di riformare lo Stato, perché in una prima fase l'obiettivo degli zapatisti è rifondare lo Stato-Nazione, fino ad arrivare a parlare al Congresso per far rispettare senza successo gli accordi di San Andrés. Loro così iniziano a costruire la loro autonomia in una seconda fase. L'idea del caracol è un'idea che oggi esiste in molti luoghi, anche perché nell'autonomia ritorna con tutta la sua forza ai movimenti sociali, e lo vedo per esempio nei movimenti di lotta femminista. En muchos lugares, porque la idea de la autonomía regresa entonces con todo su potencial a los núcleos, a las colectividades, a los pueblos, a los movimientos organizados. Incluso eso lo veo en los movimientos de mujeres que luchan. È una decade complessa, fatta di chiamate pubbliche come il Festival della Dignarabia nel 2009, ma è anche una fase di silenzi lunghi mesi, se non anni. Le ZLN decide di concentrare parte delle sue energie nell'accompagnare il governo civile e nello sviluppare l'autonomia nei suoi tre livelli, locale, municipale e zonale. Ma allo stesso tempo è forza politica che si interroga e continua a tessere reti e fare proposte per combattere il capitalismo e costruire un mondo capace di contenere tanti mondi. Il 21 dicembre del 2012, in silenzio e pacificamente, nel giorno in cui il calendario Maya finiva e credenze e teorie parlavano della fine del mondo, occupano nuovamente le 7 città del Chiapas prese in armi quasi 20 anni prima e dicono: «L'avete sentito? È il rumore del vostro mondo che si distrugge, è quello del nostro che risorge. Il giorno in cui fece giorno fu notte, e notte sarà il giorno in cui farà giorno». L'anno dopo, 2013, anno in cui le ZLN festeggiava i primi 30 anni di storia e i 20 dall'inizio della rivoluzione, invece che organizzare un grande meeting mediatico, hanno deciso di invitare persone dal Messico e dal mondo a studiare come funziona l'autonomia zapatista, stando per una settimana all'interno di una comunità, e così partecipare all'escuelita zapatista. Questo terzo podcast sulla storia dell'esercito zapatista di liberazione nazionale si chiude con la voce dell'antropologo Gilberto López Rivas. Este primero de enero próximo, el año 24, se cumplen 30 años. Il prossimo 1 gennaio 2024 saranno 30 anni dall'inizio della ribellione degli indigeni Maya zapatisti, incorporati nell'esercito zapatista di liberazione nazionale. Una data storica nella storia di questo paese e direi del mondo, perché a partire da questa ribellione armata degli zapatisti e poi dei dialoghi, negoziati, la firma degli accordi di San Andrés, l'esercito zapatista di liberazione nazionale ha dato esempio di una strategia emancipatrice di portata planetaria che è l'autonomia. L'autonomia che si pratica in un territorio del Chiapas controllato dalle ZLN, dove si governa a partire dal principio del comandare obbediendo e dove i tre livelli di governo, locale, municipale e regionale, si stabiliscono in giunte di buon governo secondo il mandato delle Z. Questa strategia di lotta è stata comunicata, diffusa senza alcun affanno di avanguardismo di nessun tipo, ma le ZLN, un esempio, e molti popoli del Messico attuale praticano questo processo di autonomia che gli zapatisti e le zapatiste stanno portando avanti da oltre 10 anni. Questa strategia di autonomia è servita anche a resistere alla ricolonizzazione strategica dei territori indigeni ed è servita anche per integrare nel 1996 il Congresso Nazionale Indigeno e il Consiglio Indigeno di Governo, che rappresentano decine di comunità indigene sul territorio nazionale. Credo che per tutti i messicani e le messicane, così come per i latinoamericani e le latinoamericane, le ZLN sia un esempio di coerenza etica e molto importante, è un esempio di come fare un altro tipo di politica, è un esempio di movimento di emancipazione a livello nazionale e internazionale. Strategica de los territorios indígenas y ha servido también para integrar en el año 96 el Congreso Nacional Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno, que evidentemente representa a decenas de pueblos en el territorio nacional. Y bueno, creo que para todos los mexicanos y latinoamericanos, el EZ es un ejemplo de congruencia ética que es muy importante, es un ejemplo de cómo hacer otro tipo de política y es un ejemplo de movimiento emancipatorio a nivel nacional e internacional. Oye tú, mi superó, te entrenaste y nos enseñaste a luchar por el pueblo, qué buen insurgente. Enseñaste el compañerismo, la disciplina y la unidad. Oye tú, guerrillero, tus chuncheras que cuando caminas y tu R-15 y un cielo estrellado. Las flores al mirarte saludan, te dan su aroma, perfume encantado. Guerrillero, brilla tu memoria y tus huellas de buen insurgente. Qué bonita esas tres estrellas en la gorra de su comandante. Compañero, qué buenos ejemplos enseñaste a tus milicianos. Qué bonitos lucen en el monte y tu lema es vencer o morir. Que cuando caminas, mochila en la espalda y tu arma cargada. Que no importa pantanos ni espinas, ni noches de lluvia, ni soles templados. Oye tú, mi su Pedro, un vaya tu nombre, lo canta un sensontle muy apasionado. Me dijo que eres un insurgente y que de muy lejos tú habías llegado. La otra tarde un compa cantaba, mientras otro su arma limpiaba, un mensaje que en él se encontraba, y un mensaje que en él le llevaba. Guerrillero, brilla tu memoria, y tus huellas de buen insurgente, qué bonitos esas tres estrellas, en la gorra de su comandante. Guerrillero, qué buenos ejemplos enseñaste a tus insurgentes, qué bonito lucen en el monte y tu lema es vencer o morir. Venimos cantando y diciendo a un hombre muy valiente, su comandante Pedro, presente, su comandante Pedro, presente. Brinca, canta, baila, muestra tu alegría, vamos a luchar con arte, resistencia y rebeldía, con arte, resistencia y rebeldía. Caracoles, caracoles, laten corazones a través de nuestras canciones, a través de nuestras canciones. Tú, su Pedro, tú, su Pedro, insurgente perfecto, tú, su Pedro, insurgente perfecto, y tenemos una guerra que tenemos que ganar. Tú todo lo puedes, tú todo lo tienes, insurgentes milicianos, juntos al festejar. Tú, su Pedro, insurgente perfecto, tú, su Pedro, insurgente perfecto, y tenemos una guerra que tenemos que ganar. Tú todo lo puedes, tú todo lo tienes, insurgentes milicianos, juntos a festejar. Juntos a festejar. ¡Hasta! Juntos a festejar. Juntos a festejar. Juntos a festejar. Gracias.